5C. Ascolta e trasforma. La lezione è facile. Le lezioni sono facili. La soluzione è difficile. Le soluzioni sono difficili. La classe è internazionale. Le classi sono internazionali. La televisione è utile. Le televisioni sono utili. Questa frase è breve. Queste frasi sono brevi. Questa parete è trasparente. Queste pareti sono trasparenti. Questa professione è interessante. Queste professioni sono interessanti. Questa comunicazione è urgente. Queste comunicazioni sono urgenti.